Italia in recessione, PIL a meno 0,7% nell'ultimo trimestre dell'anno, debito pubblico in crescita. Lavoro riprende il governo, il tavolo governo parti sociali, partiti col piede giusto, dice il segretario della CGIL Camusso. Fornero, l'articolo 18 lo lasciamo per ultimo. Difesa, il ministro Di Paola annuncia il nuovo piano, ci saranno 30.000 militari in meno. Sanremo record di ascolti, Celentano attacca i giornali cattolici che a Radio 24 replicano, gli regaliamo l'abbonamento. Buongiorno, ben ritrovati da Alessio Maurizi e dalla redazione. Partiamo dai dati economici di giornata, una situazione economica molto negativa, quella fotografata da un lato dall'Istat con i dati sulla recessione e dall'altro con i dati di Banca Italia sul debito pubblico che torna a crescere. Allora facciamo il punto con Vincenzo Miglietta, buongiorno. Sì, buongiorno, secondo segno meno consecutivo per il prodotto interno lordo, che vuol dire recessione tecnica e quanto indica l'Istat oggi nei dati relativi all'andamento del PIL per il 2011. Il valore in questione infatti chiude il quarto trimestre dello scorso anno con un meno 0,7% sul trimestre precedente e dello 0,5% su base annua. Nella sua stima preliminare l'Istituto di Statistica rileva che il paese chiude il 2011 con un PIL in aumento dello 0,4%, la crescita risulta così in forte frenata, nel 2010 era stata pari all'1,4%. Il paese è di nuovo in recessione dunque dopo circa due anni, l'ultimo periodo era terminato dopo il secondo trimestre del 2009. Altro capitolo, il debito pubblico a dicembre 2011 è cresciuto di 55 miliardi rispetto alla fine del 2010, l'incremento è del 2,98%, quanto risulta dai dati della Banca d'Italia, di conseguenza il rapporto debito-PIL del paese viaggia verso il 120%, sempre dai dati della Banca d'Italia si evince anche l'andamento delle entrate tributarie per il 2011. Sono aumentate dell'1,6% e si sono attestate a quota 403 miliardi di euro. E da Roma è tutto. A proposito delle entrate tributarie, tra poco parleremo dei nuovi blitz delle fiamme gialle della Guardia di Finanza. Adesso però ancora sul fronte economico, perché a portare un motivo di ottimismo. Il tavolo sul lavoro che oggi ha visto di nuovo riuniti governo e parti sociali e stando alle prime dichiarazioni sembra che un'intesa possa essere oggi meno lontana. Alessandra Schepisi, ben ritrovata di nuovo. Sì, buongiorno, entra nel vivo la trattativa della riforma del mercato del lavoro. Questo terzo incontro rappresenta un passo importante, così lo definiscono i sindacati, perché segna l'inizio concreto e sostanziale del negoziato e la fine della fase di enunciazione dei principi. Soddisfatta si dice anche il segretario della CGIL Camusso. Sentiamo la sua voce. Direi che se dovessimo giudicare, come dire, dall'atteggiamento e dalle proposte messe sul tavolo oggi, si avvia un negoziato che parte col piede giusto, e cioè che risposte diamo ai giovani di questo paese rispetto alla loro prospettiva sul mercato del lavoro. Soprattutto perché è evidente che siccome questa discussione la stiamo facendo in una stagione di alta disoccupazione e di crisi, non stiamo facendo un lavoro, una discussione che guarda all'emergenza, stiamo provando a immaginare quali sono le risposte che strutturalmente bisogna dare. E al centro della discussione di oggi il contratto di apprendistato che a detta del ministro del welfare Fornero deve diventare la forma tipica di ingresso nel mercato del lavoro per i giovani, un punto che trova il pieno consenso dei sindacati. Sentiamo allora il leader della CISL Bonanni. Dobbiamo discutere meglio due aspetti. Come effettivamente la parte che riguarda la formazione è davvero fruibile, è davvero effettivamente esercitata dall'azienda, e l'altra questione, l'altro corno che interessa al sindacato e stiamo discutendo, come pur nella garanzia massima per l'azienda di scegliersi e di avere la possibilità davvero di sapere cosa fa, cosa si prende, però di anche dare un esito concreto di tempo indeterminato alla fine del percorso, in questo caso triennale. E soddisfazione è stata espressa anche dalla Presidente di Confindustria Marcegaglia, siamo disponibili. flessibili a combattere la cattiva flessibilità in entrata, ma salvaguardando la buona flessibilità e senza aumentare il costo del lavoro per le imprese. Ma sul tavolo resta sempre il nodo dell'articolo 18 della cosiddetta flessibilità in uscita, tema che non è stato affrontato né al tavolo tecnico di ieri tra le parti sociali né oggi a Palazzo Chigi. Per noi questo tema non c'è, ha detto il segretario della CGIL Camusso, aggiungendo che si può discutere solo dei tempi delle sentenze, mentre un invito alla ragionevolezza arriva da Bonanni: troviamo una soluzione piuttosto che fare storie, esorta il leader della CISL. Il tema verrà comunque affrontato alla fine della trattativa, così come ha suggerito il ministro Fornero. Lunedì intanto nuovo round governo parti sociali, questa volta al ministero si parlerà di ammortizzatori sociali. E da Palazzo Chigi è tutto. Grazie Alessandra Schepisi, queste dunque le dichiarazioni a margine del tavolo sulla riforma del lavoro. E sempre per quanto riguarda l'azione del governo, arrivano i tagli anche al Ministero della Difesa. 30.000 i militari in meno previsti, tra le altre cose, dal nuovo modello di difesa illustrato questa mattina dal ministro Di Paola alle commissioni congiunte di Camera e Senato. Saranno poi acquistati solo 90 caccia F-35 invece dei 131 che erano inizialmente previsti. Un terzo dunque in meno. La componente aerotattica, ha sottolineato Di Paola, è irrinunciabile. L'Italia, ha aggiunto, ha già investito 2,5 miliardi di euro. Questa riduzione del numero però non cambia niente, i costi rimarranno identici, così dice Francesco Vignarca, coordinatore della Rete Italiana per il Disarmo, una delle associazioni promotrici della campagna Taglia le ali alle armi. Al microfono di Maria Luisa Pezzali, Vignarca conferma la giornata di mobilitazione indetta per il 25 febbraio. Questa riduzione per ora è solo nei numeri generali, ma siccome gli acquisti vanno fatti lotto per lotto, finché non vediamo i contratti non siamo sicuri di niente. Purtroppo la difesa ci ha abituato su questo programma a un po' di cortine fumogene. Il fatto poi che si riduca di 40 unità non vuol dire risparmi, perché quello che il ministro non ha detto oggi in Parlamento e nemmeno ieri in conferenza stampa è che proprio Lockheed Martin ieri ha ammesso che con la riduzione dei numeri acquistati sia dell'Italia ma anche e soprattutto degli Stati Uniti, il costo unitario di ciascun caccia crescerà. Il costo già adesso è di 110-120 milioni di euro e secondo l'azienda produttrice è destinato a salire. Voi con la vostra mobilitazione che cosa chiedete? Noi chiediamo la cancellazione di questo programma, cancellazione per evidenti problemi tecnici e evidenti problemi di sviluppo ed anche per un costo che il nostro paese non può sopportare oggi. E ora la cronaca. Al processo Mills a Milano a carico di Silvio Berlusconi, il pubblico ministero Fabio De Pasquale ha chiesto 5 anni di carcere per l'ex premier. Nella sua requisitoria il PM ha detto ai giudici che è stata creata una fittizia sequenza di carte per sostenere la tesi che i $600.000 ritenuti il prezzo della corruzione provenivano invece che da Berlusconi, dall'armatore Diego Attanasio. Dicevamo in apertura, nuovo blitz delle guardie di finanza, modello Cortina a Napoli questa volta, controllati 386 esercizi commerciali nei confronti di 317, sono state riscontrate irregolarità, dunque una percentuale altissima. È emerso che 4 esercizi commerciali su 5, ovvero l'82%, non adempiono agli obblighi fiscali previsti dalla normativa. E stamattina le Fiamme Gialle hanno condotto operazioni in tutta Italia a caccia di false fatture. Il colonnello della Guardia di Finanza di Roma, Fabio Massimo Mendella, spiega di che cosa si tratta al microfono di Adriana Fracchia. Abbiamo disarticolato un ingente sistema di frode che vede coinvolte oltre 100 società con un giro d'affari di oltre 1,2 miliardi. L'IVA evasa in questo imponente giro d'affari è di oltre 240 milioni di euro. Sono state eseguite oltre 150 perquisizioni in tutta Italia, proprio perché i soggetti coinvolti nella frode comunque erano ubicati in tutta Italia, quindi comunque c'era una ramificazione dell'organizzazione, ripeto, in tutta Italia, un'organizzazione prevalentemente che operava fra Roma e Napoli, e gli accertamenti che sono attualmente in corso attraverso anche una ricognizione dei flussi finanziari e quindi indagini bancarie mirano a individuare quelli che sono gli effetti beneficiari della frode, quindi praticamente i clienti finali che avevano la possibilità, utilizzando questo sistema di frode, di mettere sul mercato prodotti elettronici ad un prezzo concorrenziale, circa un 20%, che poi era l'IVA che non veniva pagata su questi acquisti di merce. E ora è il momento della nostra rubrica sulla lotta all'evasione fiscale. Il paese sommerso. Il paese sommerso. Storie di ordinaria evasione fiscale. Si scrive Frodi Carosello, si legge Il grande trucco per evadere l'IVA. Il meccanismo è complicato. In pratica, grazie a diversi passaggi di mano fra aziende per lo più riconducibili agli stessi proprietari, si compra a credito di IVA dallo Stato e si fanno poi scomparire le aziende che la devono versare. Nel 2011, grazie a questo trucchetto, l'IVA evasa è stata di 2 miliardi di euro, in calo rispetto ai 2,7 emersi nel 2010, tanto che si pone il solito interrogativo: sarà diminuita l'evasione o saremo stati meno bravi a individuare le truffe? Di certo c'è che le frodi carosello sono un meccanismo di evasione vecchio come il mondo, ma ancora molto in voga, e che oltre ai conti dell'erario colpisce duro anche la concorrenza. Alla fine, infatti, i beni arrivano alla grande distribuzione a prezzi stracciati. Frodi fatte spesso sulla pelle di disperati. Infatti, per metterle in atto serve un prestanome, qualcuno disposto ad accettare per un pugno di noccioline di mettersi in guai seri. È accaduto, ad esempio, recentemente che un'azienda lombarda del settore della plastica, nata dal nulla, in pochi mesi si è arrivata a fatturare 30 milioni di euro. Chiaro che qualcosa non tornava. E infatti, quando sono scattati i controlli della finanza, hanno trovato un nullatenente a capo di tutto. Gli avevano dato un paio di mensilità e un bigino in mano che avrebbe dovuto spiegargli come cavarsela. I veri truffatori, neanche a dirlo, nel frattempo sono spariti. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ora parliamo della prima serata del Festival di Sanremo, segnata dalla lunga performance di Adriano Celentano, che ha ottenuto la prima serata del Festival 14.378.000 telespettatori, pari dunque a uno share del 48,5%, un risultato superiore a quello che fu l'esordio del Festival del 2011. Polemica però per le parole di Adriano Celentano, che ieri ha lanciato un duro attacco durante la sua esibizione sul palco dell'Ariston ai giornali cattolici Avvenire e Famiglia Cristiana, che lo avevano criticato prima della sua esibizione. Sentiamo allora che cosa ha detto il molleggiato. Giornali inutili come l'Avvenire e Famiglia Cristiana andrebbero chiusi definitivamente. Si occupano di politica e delle beghe nel mondo, anziché parlare di Dio e dei suoi progetti. Ed ecco la replica dei giornali cattolici citati: lo abbiamo criticato e vuole farci chiudere così. In un editoriale oggi sull'Avvenire, il direttore Marco Tarquinio. Noi abbiamo sentito invece Don Shortino, al microfono di Katia Caramelli, il direttore di Famiglia Cristiana. Celentano denota anche poca conoscenza di questi mezzi. Io regalerò l'abbonamento a Celentano perché perlomeno ci possa conoscere bene prima di criticarsi. Credo che il suo intervento sia dovuto un po' una reazione a delle critiche che sia Avvenire, che sia Famiglia Cristiana hanno mosso nei confronti di questo suo cachet eccessivo in un momento di crisi per il paese. E noi avevamo anche detto, insomma, che anche il gesto di devolvere per beneficenza questi soldi avrebbe dovuto essere, diciamo, fatto in una forma o meno pubblicizzata. Un pessimo esordio di Sanremo, pessimo. E allora, detto del record di ascolti, sentite le parole di Celentano e la replica di Don Shortino di Famiglia Cristiana, andiamo a Sanremo con la nostra inviata Marta Cagnola, perché la polemica non si ferma qua. Marta, Festival commissariato, è così, che succede? Bello di tutto. Allora, intanto un laconico comunicato stampa: il direttore generale, dopo aver ascoltato informalmente il presidente e i consiglieri di amministrazione presenti, ha deciso, di fronte alla situazione che si è venuta a creare, di inviare il vice direttore generale per l'offerta, Antonio Marano, a coordinare con potere di intervento il lavoro del Festival di Sanremo. Questo comunicato e poi la conferenza stampa spostata di un'ora, cosa ha commentato il direttore di Rai 1? Marano viene semplicemente a darci una mano, ci farà compagnia in questi giorni, chi ha fatto un contratto a Celentano lo conosceva e mi meraviglio della meraviglia. Certo che però ha adombrato la possibilità di una violazione del codice etico che aveva sottoscritto lo stesso Celentano per l'insulto ad Aldo Grasso e poi perché ha auspicato la chiusura di giornali. Rocco Papaleo ha cercato di dire: sì, gli ascolti sono stati ottimi, ma io vengo dal mondo del cinema, non sempre fare un cinema di qualità fa ottimi ascolti e non sempre i film che vanno molto bene sono film di qualità. Gianni Morandi invece si trova in sincero imbarazzo, sta parlando in questi minuti perché ha sottolineato la sua amicizia di lunghissima data con Adriano Celentano. 13 e 19 minuti, ben ritrovati. GR24, nella prima parte abbiamo parlato dei dati economici, Italia in recessione, PIL a meno 0,7% nell'ultimo trimestre dell'anno. Al tavolo sulla riforma del lavoro riprendono gli incontri governo parti sociali, siamo partiti col piede giusto, dice il segretario della CGIL Camusso. Il ministro della difesa Di Paola ha annunciato alle commissioni di Camera e Senato il nuovo piano, ci saranno 30.000 militari in meno. E poi abbiamo parlato di Sanremo, abbiamo appena sentito record di ascolti, polemica però per le frasi di Celentano che ha attaccato i giornali cattolici. Radio 24, Don Sciortino, direttore di Famiglia Cristiana, ha replicato: gli regaleremo l'abbonamento così saprà meglio di che cosa sta parlando. Adesso le altre notizie. E andiamo subito in provincia di Pesaro Urbino, dove c'è stato il crollo di una palazzina, forse a causa di una fuga di gas. Sicuramente c'è stata una vittima, sentiamo. L'esplosione che ha causato il crollo è avvenuta verso le 9.30 al primo piano di una palazzina bifamiliare a Serrungarina, in provincia di Pesaro Urbino. C'è stata una fuga di gas da una stufa accesa per contrastare il freddo in uno dei comuni marchigiani più colpiti dall'emergenza neve. L'incidente è avvenuto nell'abitazione di una famiglia marocchina che viveva là da qualche mese. Quattro le persone rimaste sotto le macerie. La madre e le due figlie di 2 e 5 anni sono state estratte vive. La donna e la bimba più grande hanno riportato ustioni più o meno gravi e sono state ricoverate in ospedale. Le condizioni della piccola sono meno gravi, ha riportato soprattutto escoriazioni. Niente da fare invece per il padre, morto sotto le macerie. Si trovava nella mansarda ed il crollo del tetto lo ha investito in pieno. Alessandra Tedesco, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Cambio al vertice della Procura di Roma. L'ex capo della Procura di Reggio Calabria, Giuseppe Pignatone, impegnato nella lotta all'Ndrangheta, prende il posto lasciato libero da Giovanni Ferrara, oggi sottosegretario all'interno del governo Monti. Giuseppe Pignatone, il nuovo capo della Procura di Roma, lo ha deciso il plenum della CSM accogliendo all'unanimità l'indicazione della commissione direttivi del Consiglio Superiore. In magistratura dal 1974, Pignatone ha 63 anni, quasi 30 dei quali trascorsi a Palermo, prima in pretura a occuparsi di reati cosiddetti minori, poi in procura da sostituto e poi da aggiunto. Ha condotto alcune tra le più importanti inchieste di mafia degli ultimi anni, dall'incriminazione dell'ex sindaco mafioso Vito Ciancimino e dell'ex presidente della regione siciliana Salvatore Cuffaro, condannato per concorso esterno in associazione mafiosa, fino all'arresto di Giovanni Brusca e la cattura della primora rossa Bernardo Provenzano dopo oltre 40 anni di latitanza. Pignatone aveva presentato domanda per diventare procuratore capo a Palermo, ma gli è stato preferito Messineo. Lui invece nel 2008 è andato a dirigere la procura di Reggio Calabria, 4 anni durante i quali ha scoperchiato gli interessi, gli affari e i legami dell'Ndrangheta, firmando una delle più imponenti operazioni contro la criminalità organizzata calabrese e le sue ramificazioni in Lombardia e all'estero. A Roma sostituisce Giovanni Ferrara, nominato sottosegretario all'interno del governo Monti. Monica Ceravolo, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E da un po' di giorni si è tornati a parlare di riforma del sistema elettorale, si segnalano incontri e dichiarazioni, oggi ce ne sono di nuovi. Elisabetta Fiorito, che succede? Buongiorno. Sì, buongiorno, un incontro che potremmo definire storico sulle riforme costituzionali, arriva infatti la piena intesa tra due partiti che in passato si sono sempre attaccati, ma PD e Lega si sono trovati d'accordo su come modificare l'assetto istituzionale dello Stato, a partire dalla riduzione del numero dei parlamentari entro il 2013, sulla sfiducia costruttiva e sui nuovi poteri del Presidente del Consiglio e del Parlamento. Da parte della Lega poi viene ribadito l'interesse primario ad una riforma che preveda il Senato federale. Intesa anche sulla legge elettorale, che dovrà essere coerente con le riforme costituzionali, riconoscere lo stretto rapporto tra eletto ed elettore senza però l'utilizzazione delle preferenze. In sostanza si profila una riforma sul modello tedesco, almeno è questo quello che PD e Lega hanno in mente, con una Camera federale e più potere all'esecutivo grazie al meccanismo di sfiducia costruttiva. Per il momento qui da Montecitorio è tutto, voi studio. Grazie Elisabetta Fiorito. E anche se con qualche giorno di ritardo, il governo Monti va avanti su un altro fronte, quello della trasparenza dei suoi componenti. È stata infatti decisa la pubblicazione online dei redditi dei ministri entro martedì. come promesso, anche se con qualche giorno di ritardo, il termine sarebbe scaduto domani, a 3 mesi dall'insediamento i redditi di premier, ministri e sottosegretari saranno pubblicati. Lo ha deciso ieri il Consiglio dei Ministri, che ha fissato a martedì prossimo il termine ultimo. La nota di Palazzo Chigi è secca. Le dichiarazioni patrimoniali per i componenti del governo saranno disponibili dal prossimo martedì sui siti istituzionali, ma nasconde più di un'esitazione che sarebbe emersa durante la seduta di ieri. Capofila dell'operazione trasparenza il premier Monti, che ha annunciato la volontà di pubblicare in rete non solo trattamento economico, azioni, beni mobili e immobili come richiesto, ma anche il suo conto corrente. Intanto c'è chi ha giocato d'anticipo, come il ministro dell'istruzione Francesco Profumo. 199.000 euro il trattamento economico lordo annuo. Una casa a Savona, la comproprietà di un appartamento e 3 garage a Torino, un appartamento a Salina, un garage ad Albissola Mare. Niente barche, una sola auto, una Lancia Libra. Segue un corposo pacchetto azionario. Trattamenti economici simili anche per i suoi sottosegretari Ugolini e Rossi Doria, per quelli alla difesa Magri e Milone e per i ministri Barca e Patroni Griffi. Di questi ultimi però mancano al momento le situazioni patrimoniali. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E siamo al calcio, Champions League, stasera tocca al Milan che ospita gli inglesi dell'Arsenal. La maledizione dura dal 2008, col diavolo che da allora non passa agli ottavi di finale in Champions, sempre fermato da squadre inglesi. Arsenal, Manchester United e Tottenham a mandare in frantumi i sogni di gloria europei, e nel 2009 in Europa League ci pensò addirittura il Portsmouth. Insomma, forse ha ragione Ibrahimovic a non farne un'ossessione di una Champions sempre sfuggita agli in carriera. Di sicuro Allegri non pensa che lo svedese arrivi scarico all'appuntamento che vale un'annata. Anzi, di Ibrahimovic, lui non si arrende neanche quando gioca le partitine, quindi questa è assolutamente una dichiarazione resa. Se Ibra non è un problema contro i Gunners, che contano sull'eterno Henry al passo d'addio prima di tornare negli States, Allegri sorride per il recupero di Boateng. In panchina ecco Maxi Lopez ed El Shaarawy, la strana coppia già vincente a Udine, pronta a ripetersi se servirà coi londinesi. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. In chiusura parliamo delle voci sull'arrivo del nuovo iPad, che si rincorrono da tempo, ma a questo punto sembra quasi certo che verrà presentato non prima di 3 settimane. La Apple lancerà la terza versione dell'iPad il 7 marzo a San Francisco. La notizia, come tradizione, verrà confermata solo qualche giorno prima, anzi arriverà solo un invito ai giornalisti senza specificare il contenuto della conferenza stampa. Sarà il primo importante evento di Apple dopo la scomparsa di Steve Jobs e, secondo fonti concordanti, le novità saranno limitate ad un display a maggiore risoluzione, il noto Retina Display, processore quad-core più potente e supporto al 4G per il solo mercato americano. Il rinnovo della gamma serve ad Apple per sostenere le vendite di un prodotto che, assieme all'iPhone, rappresenta la parte più importante dei ricavi. Nell'ultimo trimestre sono stati venduti più di 15 milioni di iPad in un mercato in forte crescita. E mentre nel settore smartphone la concorrenza dei prodotti Android è molto forte e iPhone ha solo, si fa per dire, un quarto del mercato, nei tablet 2 su 3 sono targati Cupertino. Enrico Pagliarini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ed è tutto per questa edizione di GR24. Alessio Maurizio in studio, Roberto Scaltritti in regia, vi augurano buona giornata e linea che va all'Italia in controluce. GR24, Il Sole 24 Ore, direttore Fabio Tamburini.